L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. E ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al primo venerdì dell'Italia vista dallo spazio e anche il primo venerdì di agosto, oggi è il 3 agosto, io sono Achille Corea, siamo in diretta e chissà che venerdì è per voi, magari è l'ultimo prima di partire per le ferie, magari è un venerdì come un altro, come lo è per noi perché comunque lunedì si torna a lavorare, magari siete già in vacanza, magari fate tutta una tirata, non ci andate per niente. Mi piace pensare che in mezzo a tutte queste Italie diverse, queste vite diverse, noi cerchiamo comunque di trovare qualcosa che ci metta d'accordo, qualcosa che insomma ci unisca, ci rappresenti, scegliendo 24 oggetti da mandare nello spazio per formare questo ritratto dell'Italia da salvare, o almeno dell'Italia che ci dia un pochino di speranza. Oggi vi chiedo una cosa un po' particolare, una domanda doppia, serve sincerità, non dico che è una seduta di autoanalisi alla radio, ma ci manca proprio. Ci manca poco, però prima dobbiamo chiudere la puntata di ieri. Posto numero 4, in attesa di assegnazione. Allora, ieri abbiamo parlato di cinema, vi abbiamo chiesto un film italiano da mandare nello spazio e ci sono stati voti molto sparpagliati su tanti film, però alla fine ha prevalso un sentimento nostalgico, cioè la grande maggioranza voleva mandare un film comunque dell'epoca d'oro tra i 50, 60 e 70. Il regista più votato in assoluto è stato Fellini, il film più votato è stato Amarcord, quindi popolo nostalgico dell'Italia vista dallo spazio insieme alla Teglia di Melanzana alla Parmigiana, Alex Zanardi e il rumore del motore della 500, mandiamo nello spazio anche un DVD con il film Amarcord. Posto numero 4, assegnato. E meno male che c'è la voce della nostra app 9000 che ci ricorda il motivo per cui siamo qui, scegliere 24 oggetti anche solo simbolici, non proprio sempre concreti fisici da mandare nello spazio. E c'è là sotto la musica di Fantozzi, perché in fondo ci colleghiamo un po' alla puntata di ieri e ai vostri voti. Se la puntata di ieri l'avessimo fatta negli Stati Uniti, no? Se avessimo fatto, ne so, un USA Sing from the Space su una radio americana, probabilmente molti avrebbero votato dei film epici, dei film di eroi, di supereroi, dei film fantascientifici, perché probabilmente altre nazioni si riconoscono in quel tipo di racconto lì. Voi avete votato moltissimi film da cui emergevano i difetti degli italiani. Voti per Fantozzi, voti per Signore e Signori, voti per Brutti, Sporchi e Cattivi addirittura. C'è stato qualcuno che ha detto: nello spazio mandiamoci in rappresentanza Brutti, Sporchi e Cattivi. Perché c'è poco da fare. Non possiamo mandare un ritratto degli italiani nello spazio senza, diciamo, cercando di svicolare sui nostri difetti. Gli italiani sono un popolo non perfetto, lo sa di non essere perfetto e ama a volte anche troppo parlare dei propri difetti. Io ho pensato a questa cosa, che non sarebbe onesto costruire, diciamo, questa astronave senza infilarci dentro almeno una cosa nostra che non ci piace, e per cui oggi vi chiedo di indicarci due difetti, un difettaccio e un difettino, uno piccolo che comunque potremmo comunque salvare, con cui potremmo convivere, e uno grosso che proprio non sopportate più e che dobbiamo assolutamente eliminare nell'Italia del futuro. Allora ditecelo voi, noi avremo vari ospiti, ma intanto ditecelo voi all'800 24 0024, un difetto da salvare e uno invece proprio da buttare via. Noi chiederemo questa cosa anche ai nostri ospiti, avremo vari punti di vista. Partiamo da un attore, uno che, voglio dire, i difetti degli italiani li ha interpretati, ce li ha mostrati sul palco e al cinema. Siamo molto felici di avere con noi Gigi Proietti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Qual è il difetto degli italiani che potremmo tutto sommato salvare? Ah, dovremmo salvarlo addirittura? Cioè, per esempio, un'eccessiva prodigalità, l'italiano turista, per esempio, è un italiano spendaccione, spende anche più di quello che si può permettere normalmente. Ecco, quello potremmo magari conservarlo e dire sempre rapportato e sempre proporzionato a come vanno le economie in generale, Se non altro è un difetto che ci ricorda di momenti buoni, di momenti di prosperità. Se non altro, ecco, questo qui è, cioè, perché noi ci teniamo a fare bella figura in generale. E a questo punto, visto che ci siamo, un difetto invece proprio esecrabile? Ma guardi, quello che a me non è mai piaciuto e che negli ultimi anni si è accentuato è un po' la voglia di fare scaricabarile, di non assumersi le responsabilità. Lei avrà notato che noi diciamo sempre che è colpa di qualcun altro, insomma, e non solo, ma aspettiamo sempre che qualcun altro venga a risolverci i problemi. Basta guardare il governo attuale, insomma. E però, essendo italiani anche gli altri che aspettiamo, anche loro avranno prontamente qualcuno. Sì, ma io non è che mi tiri fuori, per l'amore, io non sono fra quelli che dice gli italiani, dico noi italiani. No, ma ci mancherebbe altro. Se in questa puntata sui difetti non diciamo noi, partiamo malissimo. Poi però purtroppo siamo simpatici. Noi italiani mi sono simpatici, non so come definire la cosa. Gli italiani mi sono simpatici in generale. C'è un personaggio suo che rappresenta, secondo lei, in cui lei ha rappresentato un difetto italiano forte? Ma non so, adesso no, non mi viene in mente. Non mi viene in mente, anche perché io non ho fatto proprio quel tipo di rappresentazione di cinema fra quelli che mi fa pure un po' ridere a volte quando sento dire dei colleghi metta la berlina i difetti degli italiani, insomma. E mi è dispiaciuto non partecipare alla grande stagione del cinema della grande commedia italiana, ecco. Anche se devo dire che, andando un po' indietro, il Mandrake di Febbre da Cavallo era molto italiano. Sì, per l'amore di Dio, però era quasi vicino alla farsa, cioè un gioco molto esasperato. Cioè, quello era la derivazione diretta dell'arte di arrangiarsi, insomma, per cui quello. Ora, l'arte di arrangiarsi, ecco, è uno di quei difetti che però possono essere considerati anche pregi, quindi la piccola truffa è perdonata, insomma, la truffetta piccola per sopravvivere o per andarsi a fare una giocata, a fare alle corse dei cavalli, insomma. Fa quasi tenerezza. Sì, di fronte a tutto il resto che succede, insomma, no? Va bene, io la ringrazio, grazie per aver giocato con noi. Grazie a voi e buon'estate. Gigi Proietti, se vogliamo, forse anche un pochino modesto, comunque lo ringraziamo di essere stato con noi. Tra l'altro lo ritrovate, se siete fan di Gigi Proietti, lunedì prossimo nella trasmissione Summertime sarà intervistato e parlerà dei suoi, diciamo, più recenti progetti, e bene, parlerà poi giustamente Elisabetta Fiorito. Insomma, noi facciamo altro, noi chiediamo a voi di dirci quali sono secondo voi i difetti più accettabili, passabili, tutto sommato non dico folcloristici ma quasi, degli italiani, e i difetti quelli più brutti, quelli su cui invece non dobbiamo assolutamente transigere, quelli sui quali dobbiamo essere veramente duri e dire no, voi nel futuro, nello spazio, nella nostra astronave non c'entrate. 800 24 00 24. Valentina da Ravenna, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Allora, cosa buttiamo? Partiamo da quello. Buttiamo degli italiani, direi la maleducazione, un po' imposta, non necessariamente siamo maleducati perché l'abbiamo nei geni, però l'italiano cosa non vuol ha dire? Neanche la possibilità cosa, di essere maleducato. Perché imposta? Perché imposta? Cioè qualcuno ci dice siate maleducati? No, assolutamente, però fate l'esempio, sono una fumatrice e non ho possibilità di buttare la cicca di sigaretta dove andrebbe, per esempio. Non siamo messi nelle condizioni di essere dei bravi cittadini del mondo, direi. Sì, non vorrei che si cadesse poi nel un altro forse difettuccio nostro, che comunque la scusa la troviamo sempre. Alla grande. Qual è invece un difetto passabile? Se proprio ne dobbiamo confessare uno da mettere in questa. Mi allaccia il grandissimo Gigi, direi la furbizia. Siamo dei gran furbetti, nel senso che sappiamo arrangiarci, sappiamo inventarci cose, ma sappiamo anche farne meno, riuscire con la scusa a essere un po' più pigri. a fare la cosetta di meno, perché oggi siamo un po' più stanchetti. Grazie Valentina, noi andiamo avanti perché qui veramente poi sono curioso di sentire gli stessi difetti commentati da persone diverse, perché è molto una questione di punti di vista, secondo me, sui quali dovremmo confrontarci. Noi siamo partiti da il punto di vista di un attore, in mezzo ci sono i vostri, e un altro punto di vista che mi interessa è quello di un inglese che vive in Italia da molti anni e che con gli italiani c'ha a che fare, perché porta in giro i suoi spettacoli, ma soprattutto tenta di insegnarci l'inglese, che voglio dire, è un'opera di un certo livello. John Peter Sloan, benvenuto. Hi, ciao, come stai? Bene, molto bene. Da quanti anni sei in Italia? Fisso da 12 anni. Ero qua prima come cantante, ma di vivere 12 anni. Ok, e ormai insomma tu gli italiani li conosci bene e li scruti molto, vedo anche dai, dai tuoi spettacoli, dai tuoi sketch con i quali tu cerchi di insegnarci l'inglese, punti molto sul carattere dell'italiano. Certo. Vi analizzo sempre. Ti scusa? vi analizzo. È vero. Allora, qual è, ti facciamo la nostra doppia domanda di oggi, qual è un difetto brutto degli italiani? Qual è una cosa che proprio secondo te dovremmo toglierci di torno? Allora, io ti dico una cavolata e poi una cosa più seria. Allora, una cavolata, ma mica tanto, è la mancanza della puntualità. Perché c'è anche questa astronave di cui parli tu, secondo me arriverà in ritardo, perché in Inghilterra è molto importante puntualità, invece qua no. Cioè, un inglese dice arriva alle 6, arriva alle 6 meno un quarto. Tu dici che la nostra astronave che noi prepariamo per tutto il mese poi alla fine si sentirà. Sicuro. Vabbè, dai. Guarda, ti dico una frase che veramente... perché io volevo dire, l'italiano uomo comunque arriva sempre un quarto d'ora dopo, e la donna arriva quando vuole, quando cavolo vuole. C'è una frase da mia ex ragazza che lei veramente l'ha detto, ha detto: guarda, ti ho detto che arrivo tra 5 minuti, inutile che mi chiami ogni mezz'ora. C'è un orologio diverso, cioè mi manda in bestia questa cosa, spiega molto. Senti, questo è grave? No, la cosa grave, però poi dopo posso dire quello simpatico che va si bene, può tenere tutto. La cosa grave qual è? Ok, la cosa grave è un po' più serio, nel senso che l'italiano, che io amo l'Italia, l'amo gli italiani e sono qua apposta, però è questo senso di individualismo, cioè io l'ho sempre detto, no? L'italiano vedi che c'è formaggio e latte in frigo, i bambini vestiti dicono vabbè, io sto bene, cavoli loro. Quello che sta succedendo adesso, secondo me, l'italiano sta capendo che è un grave errore, perché se il paese sta male, prima o poi stai male anche tu. È la sindrome dell'orticello. Forse. Si devono unire, cioè io non capisco, l'Italia che ha dato al mondo il migliore dell'arte, cultura, engineering, moda, c'è questa piccola isola che ha dominato il mondo in così tanti... Tanti cose, non c'è un paese più bella che esiste che Italia, e si trovano in queste situazioni qua, perché gli italiani non si uniscono, non, che è il bene per tutti, no? Cioè se tutti guardano tutti, stanno bene tutti, c'è questo individualismo, bene. Sì, gettiamo l'individualismo, dici, perché noi tra poco ci dobbiamo fermare, dici qual è, diciamo, la cosa più scherzosa, quella che potremmo mandare nello spazio perché secondo te non è grave. Ok, allora, l'ha detto prima Gigi, questa cosa delle scuse. Mamma mia, l'italiano mai sentito dire, guarda, è colpa mia, sono stato stupido. Cioè, io lo vedevo anche in aula, che il livello italiano, dico, ok, a che livello sei di inglese? Guarda che noi abbiamo fatto francese a scuola, non è colpa mia. E quando lo dicono, io dicevo sempre, ah, parlez-vous français? E li fregavano. Poi l'ultima scusa bella è... ma tanto l'inglese non serve, il cinese è le lingue del futuro, come fosse più facile. Richard Burton, che mi è sempre stato qua. Richard Burton faceva una gara a chi beveva di più. Poi una sera Burton mi vomita sulla moquette del salotto e quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Non ci ho visto più, l'ho preso e l'ho buttato fuori di casa. Ma certo che la vita sua è veramente un'odissea. Ma quella storia del cargo liberiano, piuttosto la Liberia dov'è, al nord o al sud? Conto. Non è vero niente. T'ho raccontato un sacco di fregnacce. La settima luna. E chi di noi non ci ha avuto Richard Burton che gli ha vomitato sul tappeto e l'ha dovuto buttare via? Siamo forse anche un po' così, ce la raccontiamo tanto noi italiani, oppure, come diceva Ennio Flaiano, ci piace invece parlare dei nostri difetti, perché in fondo anche i nostri difetti sono un argomento di conversazione, non è colpa nostra, ne parliamo tanto e poi non facciamo niente. Vi ricordo i modi per contattarci: su Facebook abbiamo una pagina che si chiama come il programma L'Italia vista dallo spazio, abbiamo un hashtag su Twitter, cancelletto dallo spazio, 800240024, e gli sms 349-238-6666. C'è un sms di Marisa che diceva: per me è recuperabile l'ignoranza, quindi la possiamo anche tenere, anzi magari aiuta, forse da gettare assolutamente l'individualismo. Quindi, come diceva John Peter Sloan, sentiamo Tiziano da Milano, pronto? Pronto? Tiziano? Senti? Sì, eccoci, sei in onda. Buongiorno a tutti. Che cosa salviamo? Qual è il difetto passabile? Il difetto passabile è la confusione creativa, l'assenza di regole, ma l'orientamento dei risultati, lo scopo, il saltarci sempre fuori, quindi una creatività che ti aiuta a risolvere i problemi. Genio e sregolatezza? Ad esempio, sì, perché no? Anche se io dico sempre: l'importante è non finire a mediocrità e sregolatezza, che poi non combini niente. Qual è un difetto grave nostro, invece? La cavillosità, la litigiosità, la faziosità, il cavillo, la burocrazia. Siamo così dolcemente complicati, diceva il poeta. Abbastanza. Anche non complicati. È già una versione soft quella tua, dolcemente complicata. Sì, diciamo forse fastidiosamente complicati. Grazie Tiziano, noi oggi cerchiamo punti di vista diversi e differenti, per esempio quello di un italiano che vive a Londra, ha pubblicato un libro che si chiama La Londra degli italiani, da Penny Heights alla City, due secoli di emigrazione, si chiama Alessandro Forte, benvenuto. Ciao a tutti. Allora, è un libro, intanto il tuo diciamolo, su due secoli di emigrazione dall'Italia a Londra, che insomma rappresenta anche vari tipi di emigrazione molto molto diversa, diciamo, da quella di due secoli fa a quella di oggi, che fondamentalmente si fa in aereo e si fa spesso per cercare lavori di alto livello. Sì, esatto, diciamo che un viaggio lungo due secoli che comincia nell'Ottocento, nella Londra vittoriana, e che ci vede all'inizio mendicanti di strada addirittura, ci vede all'inizio semplici gelatai, e che poi però ha visto un exploit degli italiani all'estero, con singole personalità, ma anche con un trend abbastanza definito di persone che si sono fatte molta strada e che adesso sono diventate banchieri, professori, medici o addirittura il maestro del Royal Opera House, che è il più importante teatro al mondo, è italiano, ha origini italiane e non ha mai preso il diploma di conservatorio, o persino la BBC è stata fondata da Guglielmo Marconi, che si è guadagnato il Nobel per la fisica in Inghilterra perché è stato quasi scacciato dall'Italia. Quindi ci sono molte storie, tanti successi, qualche disfatta. Insomma, due secoli ricchi. Senti, che cosa vedi degli italiani da fuori che ti dà, diciamo, meno nostalgia? Qual è la cosa che proprio vista da lì dici: di questo dovremmo proprio liberarci? Beh, secondo me la furbizia, purtroppo quella il fatto di aggirare sistematicamente le regole, che a volte si nota in Italia, perché saperci fare un conto, però cercare di aggirare appunto sistematicamente le regole è un altro. Il fatto che noi la furbizia spesso la mettiamo nei pregi, quando diciamo: ah, quello è furbo. Beh sì, è vero, però da un altro punto di vista, saltare sempre le file e non pagare le tasse nel lungo periodo non porta lontano, nel senso che viene meno una delle regole, uno dei valori fondanti delle società complesse, che è la fiducia, la credibilità. Purtroppo noi italiani all'estero a volte ci dobbiamo un po' confrontare con questa carenza di credibilità che talvolta gli italiani in patria creano. Diciamo che essere furbi, un certo tipo di furbizia nel lungo periodo non è furbo, sintetizziamola così. E qual è invece un difetto italiano, oppure una cosa che noi riconosciamo come un difetto, che però tu non trovi così tragica, che potremmo salvare? Ma direi la... chiassosità, una certa invadenza che a volte ci caratterizza. Secondo me è un effetto collaterale di una cosa positiva, in realtà, che è la giovialità e l'ottimismo, che invece metterei nelle cose da salvare. Per chi non ci è abituato, l'irruenza degli italiani può lasciare un po' spiazzati, specialmente in una città come Londra, dove incrociare lo sguardo in metropolitana sembra essere quasi un peccato mortale. Però diciamo che questo è un difetto che ci possiamo concedere. Beh, infatti sì, dai, non penso che anche una delle cose di cui noi magari non sentiamo la mancanza appena andiamo all'estero, per cui diciamo, ah, guarda come sono educati e tranquilli qua, però dopo un po' dici, ma perché nessuno mi parla, nessuno mi abbraccia? Grazie Alessandro, sì. Grazie Alessandro. Grazie a voi. E ricordiamo il tuo libro, La Londra degli Italiani, a Liberty Editori, alla prossima. Ciao, grazie. Cazzo, ma signore, ma che sta succedendo qua? Uno manca 4 anni e siete usciti tutti di testa. Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Catasso, non se ne pagano, caccio caccio. E mentre mandava questa clippina di qualunque mente di Albanese, guardavo un po' gli sms, i messaggi. Il problema è che per alcuni la Fabrizia la mettono nei difetti gravi, altri la mettono nei difetti leggeri. Dovremmo metterci d'accordo, temo. C'è un messaggio di Max da Novara che dice che porterebbe nello spazio il delizioso difetto del gesticolare, da condannare invece la totale mancanza di rispetto per la cosa pubblica. Paola da Roma, benvenuta. Buonasera, buongiorno a tutti. Eccoci, che difetti, difettaccio e difettino? Ah, il difettaccio secondo me è che noi non siamo uniti come popolo, cioè ci autocritichiamo troppo, soprattutto all'estero. E quindi siamo i primi che facciamo pubblicità dei nostri stereotipi, che non difendiamo diciamo la nazione, gli italiani, quindi non siamo uniti. Mi piacerebbe vedere gli italiani sempre un po' come quando siamo avanti al televisore e ci sono i mondiali di calcio. Beh, quello ogni 2 anni, cioè basta avere un po' di pazienza. Qual è invece un difettuccio, esatto, un difettino, una cosa passabile? Il difettino secondo me è che siamo i creativi disordinati, l'ha detto pure qualcuno prima. Cioè abbiamo un sacco di creatività, cioè la lampadina non ci manca, e che non riusciamo a creare poi la rete elettrica per portare le nostre idee creative in maniera strutturata nel mondo. È a intermittenza, è una strobo la nostra lampadina, diciamo così, per gli amanti delle discoteche può andare bene. Punto di vista ancora differente è un giornalista, è il direttore del Post.it, ha scritto un libro che si chiama Un grande paese. Luca Sofri, benvenuto. Benvenuto a voi, buongiorno. Ecco. Luca, tu segui sempre con molta attenzione sia la stampa estera che quella italiana. La prima cosa che volevo chiederti è che se secondo te gli italiani comunque hanno una percezione buona, chiara dei loro difetti e del loro, diciamo, della loro identità. Una percezione sì, forse ce l'hanno, hanno forse anche un eccessivo compiacimento e autoindulgenza, cioè usiamo i nostri difetti quasi per confortarci e convinti che ripeterli ed esibirli appunto ci renda particolarmente autoironici, però insomma alla fine finisce che non facciamo niente per superarli. Sì, noi diciamo il gioco di oggi è che comunque uno lo vorremmo esporre magari non troppo grosso per onestà, e quindi ti chiedo qual è secondo te quello più passabile tra i difetti più comuni degli italiani. Quello più passabile vuol dire quello più tollerabile? Sì, sì. Ma quello più tollerabile forse diciamo è parte anche del difetto più grave, nel senso che è il nostro provincialismo e insistenza appunto sulla nostra scarse doti, sulle nostre scarse forze di comunità, eccetera, eccetera, che è un difetto da una parte, ma dall'altra alla fine aiuta a essere un po' umili, insomma. La storia ci ha insegnato che poi quando si è troppo orgogliosi di se stessi, sia nel privato che anche come nazione, si rischia di combinare dei guai. Quindi diciamo abbassare un po' la cresta e abbassarsi un po' la cresta può essere non utile. Fa male. Qual è invece il difetto che ci impedisce di essere un grande paese? Di avere la cresta almeno un pochino più alta, ecco, di tenerla in equilibrio. Guarda, ce ne sono parecchi, naturalmente molti li hanno anche citati gli ascoltatori, gli ospiti che mi hanno preceduto. Mi incuriosiva molto il ragionamento di prima sull'essere caciaroni, eccetera, soprattutto rispetto alla vittoria di ieri nel Fioretto, no? Che ha entusiasmato tutti quanti, e che brave la squadra, eccetera, eccetera. Dopodiché abbiamo fatto delle sceneggiate che non si sono viste fare da nessun'altra squadra, anche diciamo in uno sport, in un contesto dove siamo i più forti del mondo e riconosciuti come i più forti del mondo. Senti, appunto, siamo in chiusura, ti devo chiedere in sintesi, quindi questo è il nostro difetto più grande? Dovremmo essere più... No, il nostro difetto più grande è che non vogliamo mai e non riusciamo mai a essere un po' maggioranza, ci racchiudiamo sempre nel compiacimento della nostra minoranza, delle nostre essere originali, nel nostro... Siamo troppo nicchia. Grazie Luca, siamo proprio in chiusura, ti devo salutare, devo chiedere alle persone di continuare a votare su Facebook, su Twitter con l'hashtag Dallo Spazio e via mail. Grazie a tutti, da Achille Corea ci sentiamo lunedì. Posto numero 5, in attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a italiavistadallospazio@radio24.it.